Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qui. Hai allora, sempre un Pokémon sulla spalla. 8, 17, sei sicuro? Non lo so, so che ci sono anche alla camera, dicono. Beh, in America mi meraviglia, sai, non credo che gli abbiano veramente una tale missione autoconsapevole da distrarsi così poco. Si distraggono molto. Sì, esatto. Posso dirti, più si occupano di Pokémon, di meno mi preoccupo, perché esatto, fanno meno danni, capisci? Questo. La cosa incredibile è che io non ne voglio entrare, più non ne voglio entrare in questa storia dei Pokémon e più mi stanno trascinando dentro. Trascinando, quindi. perché poi in realtà è il classico fenomeno di massa. Ogni esatto, tanto si vede per strada qualcuno... Dice, non ne voglio parlare, dunque ne parlo. Che, no, ma quando vedi quelli che oscillano per strada, sì. Che in altri tempi nessuno direbbe il caldo, poveri. Invece no, adesso bisogna capire. Una bottiglia di vino. Che alla ricerca adesso. Di un Pokémon. Va bene, va questo bene. 20 luglio, siamo in diretta fino alle 9.30, caro Alessandro. Certo. Non ti stupirà sapere che oltre a Santa Pollinare oggi, che è un nome che chiunque sia nato a Ravenna ricorda, Santa Pollinare in classe. Sì, proprio lui, Santa Pollinare, era un discepolo di San Pietro, primo vescovo, evangelizzatore dell'Emilia Romagna. Pensate, Santa Pollinare pensava che non vincessero i comunisti da quella parte. E poi la storia lo ha smentito, però c'è ancora la sua bella basilica. Ma chissà perché, oltre a tutti i santi del giorno, io ne ricordo particolarmente una. Chissà perché, Santa Margherita di Antiochia. Perché un'altra Margherita. E un altro regalo. È la Santa Margherita settimanale rispetto al calendario liturgico. E questa qua, pensa, martire, perché rifiutò sotto Diocleziano di farsi, per così dire, dal governatore di Antiochia, e quindi il governatore di Antiochia si vendicò martirizzandola da cristiana. Che cosa è avvenuto oggi? Se guardiamo a ritroso, oggi sono avvenute cose purtroppo poco felici, come nel 2001 G8 di Genova. Oggi è il giorno della morte di Giuliani, di Carlo Giuliani, durante, lo ricordate, quel controverso attacco alla camionetta dei carabinieri, eccetera eccetera. Morì Carlo Giuliani, era il 2001. Però, peraltro, ricordiamo anche mezza città, un po' a ferro e fuoco, per così dire. Non proprio un bel ricordo, ma ricordiamoci che questa è anche la nostra storia. Mentre nel 1969, per me, una notte indimenticabile, perché mia mamma la notte non mi voleva assolutamente, mia mamma era molto rigorosa, quindi non voleva che io potessi guardare lo sbarco sulla luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin. E quindi io ho questa memoria, in piedi in corridoio al buio con la porta chiusa. Guardavi la luna, no, per sperare di vedere, tentando di orecchiare una cosa veramente. Cioè... No, dico, magari guardavi la luna, magari dice la vedo dal vivo. No. Purtroppo, però insomma, ecco, questo un po' quel che c'è da ricordare del giorno. Ma invece sui giornali, tante notizie. Tante ma i giornali, cosa vuoi che racconti, no, Oscar? Sono tempi così tra la Turchia, la Germania. Dove questo altro, come definirlo, cane sciolto, pazzo, insomma impazzito, questo 17enne afghano autoinvasato. Questa è la mia opinione. Poi c'è Nizza, eccetera, soprattutto in Turchia. Signori, l'abbiamo detto anche ieri, ma questa è la Turchia che qualcuno vorrebbe in Europa? La Turchia che espelle, ormai sono 49.000 le persone epurate proprio tra dipendenti, sì, licenziati, pubblici, destituiti, insegnanti, mullah, carcerati. Pensa, ieri ho militari. Fatto, ho pensato a questa cosa, cari ascoltatori, guardate, il paragone secondo me non è improprio, però nel 1931 il capo del fascismo, sì, il duce Benito Mussolini, pretese un giuramento dai professori universitari italiani e solo in 12 si rifiutarono di prestarlo, perso la cattedra, ma per il resto tutti gli altri, cioè quelli che erano evidentemente antifascisti, sia cattolici, socialisti, comunisti, azionisti, liberali, lo prestarono per finta, e Mussolini a nessuno di quelli torse un capello e gli levò la cattedra, gente come Einaudi, Chabot, Omodeo, eccetera. Allora, questo invece butta fuori 35.000 insegnanti tra pubblici e privati in un solo giorno. Certo. Allora, se siamo al punto tale che il fascismo sembra una cosa all'acqua di rose, forse è il caso di rifletterci, no? Guarda, oggi Libero, addirittura tu parli di Mussolini, oggi Libero titola così: Erdogan è come Hitler, un titolo, diciamo, per nulla sfumato, no, nello stile del giornale. E però la situazione è questa, cioè raccontano i giornali, racconta Repubblica, racconta il Corriere della Sera di una legge islamica, per esempio, che giorno dopo giorno si va imponendo proprio con i laici della Turchia, che per soprattutto le, donne, le laiche, ecco, della Turchia, per le donne saranno tempi amari, che hanno paura di andare in giro proprio vestite, si avvicinano uomini barbuti, raccontano gli inviati a dire state attente perché tra poco non potrete più andare in giro vestite così. E poi c'è il grande mistero su questo golpe, no? Un grande mistero che però inizia a dissiparsi, cioè sono gli stessi militari lealisti quelli che hanno fatto ieri trasparire alle fonti internazionali che loro hanno avvisato molto per tempo, cioè il giorno prima, di quello che non tornava nei movimenti di alcuni corpi d'armata, nei collegamenti sulla linea militare tra diversi ufficiali. Quindi quello che è sempre più evidente è che il regime era consapevole, ha lasciato fare, e i fatti sono scattate con una immediatezza altrimenti impensabile, reazioni sia dalle forze lealiste sia, come si vede, dall'epurazione immediatamente nelle prime ore successive liste di migliaia di magistrati, militari, poliziotti, dipendenti dello Stato, insegnanti, imam, che significa anche l'epurazione del clero, no? Che non è in linea e che può avere infiltrazione con l'uomo nero, di cui lui teme molto la permanente importanza nella Turchia, cioè Fethullah Gulen, che sta negli Stati Uniti. Tutto questo non può scattare in poche ore così automaticamente. Sì. No, ma noi parliamo subito di questo. Parleremo anche, ve lo ricordo, avremo Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, per la questione dei cosiddetti cani sciolti, legami con la Puglia. Oggi c'è una bella pagina di Cristina Giudici sul Foglio che racconta come la Puglia sia la porta jihadista per l'Italia, il rischio. Parleremo anche di Olimpiadi e doping russo, questo dalle 9 alle 9.30. Con noi intanto, caro Oscar, c'è Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera. Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti. Uno dei primi che sul Corriere della Sera ha lanciato, grande conoscitore tra l'altro della zona, no, e della Turchia, ha lanciato questo sospetto, possiamo dire, Ferrari, questa idea che questo golpe sia stato un po', come dire, se non altro o pilotato o comunque c'è qualcosa che non va, che può essere raccontato, cosa? È un po' più di un sospetto. Io conosco quel paese da 36 anni e conosco bene anche Erdogan, l'ho intervistato 4 volte, e insomma il tentativo di islamizzare il paese era in corso pesantemente da circa 2 anni e mezzo, 3 anni, islamizzarlo in maniera radicale, in maniera dura, e quindi non è stupefacente, secondo me, che ci fossero forze che tendevano a radicalizzare ancora più la situazione, forse all'interno del potere. Ora, parlare di una rivolta diciamo laica delle forze armate contro Erdogan, insomma, organizzata così, mi viene da ridere, perché penso che le forze armate turche meritino molto più rispetto di quello che così che risulta da quello che è accaduto con alcuni corpi, eccetera. Secondo me questo è stato un golpe pilotato, anzi è stato un golpe fasullo, nel senso che è stato il governo e le sue strutture ad avere manovrato in qualche modo per il golpe. Poi tutto il resto sono invenzioni alla James Bond, lui che pare che abbia detto sì, eravamo lì, sono scesi dagli elicotteri, hanno cominciato a sparare, io sono uscito. Ti ha detto un quarto d'ora in ritardo e sarei morto. Cioè, però insomma, voglio dire chi non conosce la Turchia non conosce Erdogan. E può magari cascarci, ma non è possibile, è una cosa assolutamente ridicola. E io credo che un segnale molto chiaro ci venga da 2 partiti di opposizione. Il primo a dire non siamo con i rivoltosi è stato il maggior partito di opposizione, il laico Partito Repubblicano del Popolo, che fu fondato da Atatürk. Ma adesso c'è chi si chiede giustamente: come mai il partito curdo non ha reagito neppure lui e non ha sostenuto questi rivoltosi? Ma perché entrambi avevano capito che è un giochino estremamente pesante. Ma fatto proprio da Erdogan stesso, o comunque no, da persone. Ma magari non dico Erdogan per lui direttamente o il suo entourage diretto, ma gente che lui controllava. Perché altrimenti non si spiegano tante cose, non si spiegano questo non si spiega il fatto che lui già sapesse che gli americani mai avrebbero accettato, gli americani non sono sciocchi e hanno bisogno della Turchia, mai avrebbero accettato di sostenere un golpe militare vero, mai, proprio per ragioni di decenza internazionale. E poi non dimentichiamo che lui si è riavvicinato improvvisamente, come dicono gli inglesi, out of the blue, alla Russia, e andrà a Mosca nel mese di agosto, a Israele e persino alla Siria di Assad. Ora, voglio dire, queste sono cose che non possono essere decise dal mattino alla sera. È successo tutto circa un mese fa e 25 giorni fa, e ora questo che non si sa neanche appunto se definirlo golpe. C'è qualcuno, caro Oscar, che dice: ma il colpo di Stato non è quello che è avvenuto appunto da operetta, diciamo così, ma il colpo di Stato evidentemente è quello che è in corso adesso a questo punto. Certo che sì, almeno dal mio punto di vista, perché però forse è un po' minoritario, ma la mia domanda, siccome sono lettore da decenni di Antonio Ferrari, e lui era veramente il primo, Alessandro, fin dal primo momento anche con reazioni supercilioso di alcuni colleghi di grandi testate che dicevano: ma insomma, questa tesi di Ferrari, perché lì per lì naturalmente prevaleva lo sdegno verso il golpe militare, eccetera. Però detto questo, la mia domanda all'attento osservatore che conosce bene la Turchia davanti e dietro i veli, e che mai come oggi mi sembra sempre più appropriato parlare di veli nel caso della Turchia, chiedo: come dobbiamo comportarci come Europa, come NATO? Ci sono anche delle testate nucleari americane a Incirlik, come comportarsi con un'accelerazione di questo tipo, con una violazione così palese di ogni diritto di libertà e anche diritti umani? C'è gente che perde il posto, viene carcerata senza diritto alla minima difesa e così via. Cosa dobbiamo fare, nella tua opinione, guardando a quel che resta dell'unità dell'Europa rispetto a questa accelerazione di Erdogan? Oscar, grazie per la domanda, prima di tutto, ma più che mai opportuna. Dico subito che le armi nucleari americane sì sono in Turchia, vicino alla base di Incirlik, però le chiavi sono in mano agli Stati Uniti, quindi non è che la Turchia è diventata improvvisamente una potenza nucleare, dico e aggiungo per fortuna. Dico un'altra cosa: come ci dobbiamo comportare? È chiaro che se continua così l'Occidente, parlo dell'Occidente nel suo complesso, quindi metto Stati Uniti, Europa, Gran Bretagna non sappiamo ancora se è dentro o fuori, ma forse ancora mezzo con un piede dentro l'Unione Europea, possono reagire e reagiranno. È evidente che se la stretta, diciamo, repressiva continuasse, insomma, qualche posizione bisognerà prendere. Io capisco la realpolitik, capisco gli Stati Uniti per esempio sopportano tante violazioni dei diritti umani in Cina e non le denunciano perché la Cina ha in mano, come sai Oscar, il 30% del debito pubblico americano. Ecco, e quindi anche qui c'è una questione di realpolitik, perché l'Occidente e anche la Russia, che guarda con molta attenzione quest'area del mondo, hanno bisogno di un pilastro, e la Turchia è indubbiamente un pilastro a fronte di un mondo arabo, Turchia non araba, ma Turchia Islam che guarda dall'altra parte a una situazione tribolata a causa dell'ISIS, a causa dell'instabilità e quant'altro. Quindi c'è bisogno di un paese forte, un paese dove passano 5 corridoi energetici, non possiamo dimenticarlo, un paese che forse può anche giocare un ruolo di go-between tra Stati Uniti e Russia, e io credo che questa sia la mossa strategica che Erdogan è stato convinto a fare. Ora, mi chiedevi dell'Europa e della NATO. La prima cosa è che, siamo sinceri, io sono dell'idea che noi abbiamo commesso un errore mastodontico a non prendere la Turchia in Europa tanti anni fa. quando sono cominciate le trattative abbiamo continuato a giocare, secondo me, noi europei, sporco, in che senso? Alzavamo l'asticella delle condizioni a gara in corso, e questo è un male, insomma, non è stato corretto. Adesso è chiaro che i turchi si sono sentiti rifiutati. Lui stesso, mi ricordo, nell'ultima intervista che gli ho fatto, ero assieme al mio direttore di allora, Ferruccio De Bortoli, e lui disse una cosa molto a molto chiara: sono 50 anni che aspettiamo, non possiamo continuare ad essere presi in giro. Ed era ancora l'Erdogan accettabile del 2009-2010. Ora però è ugualmente accettabile. Ora, secondo me, noi non abbiamo voglia assolutamente di prendere la Turchia in Europa, e i turchi secondo me non hanno nessuna intenzione di venire in Europa. Parlo della maggioranza. Noi ce ne serviamo, anche qui parliamo di realpolitik, però soltanto per la questione migranti, che poi è stata la Merkel a proporla, perché sì, la Merkel ha 4 milioni di turchi. Per quanto riguarda in casa, per quanto riguarda il denaro, i famosi 6 miliardi di euro che l'Europa sarebbe pronta a dare alla Turchia perché freni il flusso di profughi, come diceva l'altro giorno il sottosegretario Mario Giro, il sottosegretario italiano, di questi soldi le sono stati consegnati finora 400 milioni. Ed è bene fermarli, perché quello potrebbe essere un elemento di ricatto anche dalla parte di Ankara, Istanbul. Assolutamente. Adesso li vogliamo, li avete promessi, altrimenti l'arma tra virgolette migranti è un'arma potente. Oscar, però chiariamo una cosa: che il flusso migratorio è improvvisamente diminuito, cioè c'è semmai dal Nord Africa, e noi purtroppo siamo ancora una volta esposti, ma dalla parte dalla Siria, diciamo, il numero di profughi si è radicalmente ridotto, quindi è meno urgente, e forse anche soprattutto meno urgente per i paesi del nord, perché il flusso via terra dopo l'attraversamento dell'Egeo per arrivare in Grecia, sapete che alcune isole greche proprio sono vicine ma chi è il leader europeo che ha riservatamente migliori contatti con questo Erdogan radicalizzato, secondo te? Ancora la Merkel? Assolutamente, per forza, proprio perché ha 4 milioni di turchi in casa. Ora è chiaro che anche la Merkel non può accettare lo scempio che stiamo vedendo. Io per la verità, Oscar, dico una cosa: quello che dice Erdogan non è sicuro che tra un mese farà, quindi non credo alla pena di morte. Non credo, la pena di morte in Turchia è stata abolita formalmente dopo la cattura di Öcalan, il leader dei curdi del PKK, che vagò per l'Europa, lui che vagò per i cieli d'Europa fino a quando l'Italia gli diede un'ospitalità un po' presuntuosa e sbagliata, poi finì in Africa, poi andò in Grecia e poi fu catturato a sempre in Africa, eccetera. Lui fu condannato a morte, però la pena fu trasformata in ergastolo. In ergastolo perché la pena di morte di fatto fu cancellata dalla legge. Adesso ripristinarla è chiaro e evidente che lui dovrà fare qualche conto, e se non lo fa lui, che è un isterico e che è un, insomma, i suoi problemi sono cominciati con un cancro molto brutto che ha avuto all'intestino, gli hanno tagliato 75 centimetri, cosa con confermatissima, non è un grosso, è proprio voce, è proprio informazione netta e chiara. Credo che quello sia accaduto 4 anni fa, se ben ricordo, io ho parlato anche con uno dei medici. E quindi su questo lui ha cominciato a prendere stranissime derive. Se voi pensate al palazzo presidenziale, che si è fatto costruire in una zona abusiva con 1200 stanze, ma neanche alla Regia di Versailles, ma al confronto il palazzone di Ceausescu fa quasi ridere rispetto a quello che ha fatto costruire. Insomma, Erdogan, no, ma una persona anche dal punto di vista proprio dell'ego non indifferente, come si vede. Allora, noi ringraziamo Antonio Ferrari, grazie Antonio Ferrari, editorialista del Corriere della Sera, perché ci ha dato uno spaccato della Turchia da parte di uno che la conosce perfettamente. Insomma, con qualche colpa nostra, e qua adesso un processo che io lo considero pressoché ingestibile. Però dice quello che dice Erdogan magari tra un mese non varrà, per cui vediamo. Nel frattempo, magari... queste decine di migliaia di persone, però il segnale al paese è: abbiate paura. Abbiate paura, è chiaro. Caro Oscar, mi chiedi, scrive un ascoltatore, ma perché vedevi la luna? Tanto non ti sei perso nulla, visto che non siamo mai andati sulla luna. Ma come, hanno pure reso noto il codice sorgente. Ma tu ma lo sai che insomma questo è uno dei grandi temi complottisti. Ci sono le prove. È partito tutto quasi da lì, non siamo mai andati sulla luna, tutto il filone del complottismo. Moderno. Va bene, dai, tra poco noi avremo il procuratore antiterrorismo e antimafia Franco Roberti per parlare di Italia, per vedere se insomma anche questi cani sciolti sono tra noi e capire perché è sempre in Puglia, no? La Puglia pare che sia un po' una specie di ventre molle dell'Italia. Ci spiegherà e ci dirà se è così tra poco Roberti. State con noi. State ascoltando un programma offerto da Fresca Salumeria Beretta. Tanti salumi italiani, buoni, gustosi e già affettati. Allora, sono le 8:39 minuti. Caro Oscar, qua dopo la Turchia, insomma, in Germania succede quello che succede. A Nizza sappiamo che purtroppo è successo quello che è successo. È il numero di vittime italiane, di Parigi abbiamo capito, poi ieri abbiamo capito che è di una certa consistenza. Tra l'altro quello che si parla adesso di ultima, adesso non vorrei dire moda giornalistica, ma ultima tendenza è questa, la radicalizzazione istantanea. Cioè in 15 giorni, 20 giorni, pare che persone, come definirle, esaurite, pazze, passino dai locali notturni e dalle conquiste sessuali al radicalismo della vita, cioè come dire un'ultima ragione della mia vita dell'Islam. La trovo così secondo me. Degna morte che ricambia quel che c'era prima, come devo dire, cioè, il mito della bella morte rinnovatrice non è niente di nuovo nella storia, la cosa nuova è che si faccia con una bandierina nera in mano, ecco. Esatto. Comunque anche a Nizza è stato fermato questo francese, questo tunisino, scusate, tunisino francese, che però pare sia stato anche a Gravina di Puglia. In Puglia oggi sul Foglio c'è una grande inchiesta di Cristina Giudici sul varco italiano del jihad, sarebbe la Puglia in questa inchiesta, Cristina Giudici. Vogliamo salutare il procuratore nazionale antimafia antiterrorismo Franco Roberti, buongiorno. Buongiorno. E grazie di essere nuovamente con noi. Insomma, è davvero così? La Puglia è la regione più delicata da questo punto di vista, dottor Roberti? Non possiamo assolutamente ancora affermarlo. Quello che sappiamo è che diciamo ci sono indagini a cura della Procura di Bari perché alcuni elementi legati alla strage di Nizza portano a fare indagini in Puglia. Punto. Basta. Questo diciamo, è quello che si può dire per ora. E non possiamo certo affermare che la Puglia sia il varco per il terrorismo in Italia, certamente no. Però questa persona che è stata fermata in Francia, questo tunisino, era passato a Gravina, cioè questo lo possiamo confermare. Questo è noto, c'è stato questo passaggio e adesso insomma ci sono le indagini per capire tutto diciamo il contesto in cui si è mossa questa persona. Come si fanno a fermare i cosiddetti cani sciolti? Poi li definisca come vuole lei, nel senso che quelli che sembra che di colpo impazziscano in qualche modo e vanno a colpire. Cioè c'è una strategia per individuarli? In gergo si chiamano lupi solitari. La strategia della prevenzione, perché parliamo di prevenzione innanzitutto, deve tenere conto di questi fenomeni che stanno insorgendo in questo periodo, di cui prima non si aveva notizia. Cioè di soggetti che improvvisamente scelgono, fanno la scelta folle di commettere un attentato, di uccidere altre vite umane e magari anche di morire in nome del jihad. Tutto questo diciamo, è una fenomenologia nuova alla quale bisognerà rapidamente adeguare anche le modalità investigative, anche cercare di capire che cosa succede nella testa di questi individui, conta anche capire la psicologia di questi soggetti, ed è quello che stiamo facendo. Il rischio però è come riuscire a individuarle, cioè se persone che di colpo decidono in qualche giorno di... individui o meno cerchi di individuarli partendo dal contesto in cui si muovono, quindi partendo diciamo, da certi comportamenti, da certi indici comportamentali che però ripeto ci costringono in questo momento con i nuovi fatti, con la nuova fenomenologia, a fare i conti con una novità, quindi una novità anche per le indagini, e questo ci impone. impone assolutamente di adeguare i nostri meccanismi e anche, diciamo, il nostro modo di pensare alle indagini preventive, proprio per arrivare al target di questi soggetti. Mm. Cioè, questo cosa vuol dire? Strumenti nuovi di che tipo, procuratore? Strumenti nuovi di qualunque tipo, quindi sia di tipo tecnico che di tipo tradizionale, che sia di tipo tradizionale. Mm. Poi c'è il grande tema della rete, perché tutto avviene sulla rete. Sì. I percorsi di radicalizzazione e anche la comunicazione dell'avvenuta radicalizzazione, come per esempio è avvenuto con il ragazzo in Germania, avvengono sulla rete. E è qui che bisogna intervenire. E ora non mi chieda come, credo che sia, diciamo, dovrà essere oggetto nell'immediato futuro di un approfondimento molto attento. Ma sono sicuro che la frontiera nuova è quella. La rete. La rete. Cioè. Procuratore, senta, c'è una tradizione riservata, di cui però poi nei decenni abbiamo documenti, ma hanno appena uscito un libro dell'ex giudice priore che fa molto discutere chi segue questa ricostruzione ex post, di come l'Italia nei decenni, in maniera evolutiva, ma con un certo tratto di persistenza in questa scelta di fondo, ha tentato di affrontare e di limitare, ovviamente, le conseguenze negative sul proprio territorio e per i propri cittadini, l'evoluzione del fenomeno del terrorismo, all'inizio quello palestinese, poi quello antipalestinese, ma sempre di quella provenienza, poi non più laico nazionale, ma insomma islamista. E di questa strategia fa parte anche, per così dire, una regia delle indagini ispirata a una grandissima non prudenza sulle misure da assumere, le misure preventive, le persone da seguire, eccetera eccetera, ma una grande prudenza nel gestirne la comunicazione pubblica, cioè non andando alla ricerca del colpo esplicito per rassicurare l'opinione pubblica. Ci sono altri paesi che fanno l'esatto opposto, quanto invece nel tentativo anche di contenere i danni rispetto alle reti di appartenenza o di provenienza, per impedire poi che ci siano delle ritorsioni in Italia. Fatto sta che gli italiani muoiono negli attentati all'estero, fino a questo momento, ringraziando il Dio, insomma, noi in Italia grandissimi attacchi non li abbiamo avuti. La domanda che le faccio è: c'è ancora questo tratto nell'atteggiamento istituzionale riservato che fin dal vertice più alto della catena dello Stato a voi magistrati di prima fila dice insomma, comportatevi meglio mille parole in meno che una parola in più, perché anche questo ci serve per costruire strategia di sicurezza nazionale? No, io non voglio fare domande imbarazzanti, però ha capito di cosa parlo. La sua domanda riflette esattamente quello che è il mio pensiero, e senza volere assolutamente confrontarmi fisicamente con nessuno, io penso che in questa materia la riservatezza assoluta sia uno strumento, sia una necessità, un imperativo. Quindi le indagini vanno fatte in modo compiuto, in modo tempestivo, dopodiché se ne può parlare dopo che sono state completate. Questa secondo me è una regola fondamentale per tutti, deve esserlo per tutti gli investigatori. Questo le posso dire. Perché abbiamo... anche perché non possiamo fare, diciamo, neanche la cassa di risonanza. Ah, certo. Noi più ne parliamo e più facciamo la cassa. Cioè, noi dobbiamo fare le indagini, dobbiamo arrivare a prevenire come avviene, come peraltro avviene, e diciamo a reprimere quando si deve. Perché sui giornali non le sarà sfuggita, procuratore, anche la polemica che c'è stata con il Ministero dell'Interno, col ministro Alfano che ha comunicato di queste indagini che riguardano Gravina. E lei insomma ha dichiarato è bene prima che siamo informati noi prima che l'opinione pubblica di queste indagini. Guardi, non è questione di fare polemiche, bisogna fare in questo momento in cui tutti siamo chiamati, tutte le istituzioni sono chiamate, diciamo, a fare il massimo sforzo per assicurare, diciamo, un contrasto efficace a questi fenomeni, anche soprattutto la prevenzione. In questo momento dobbiamo tutti essere consapevoli da tutte le delicatezze estreme del momento, e poi della necessità di non far circolare informazioni in modo intempestivo, anche perché pubblicizzare certe cose, adesso non faccio riferimento al caso concreto che potrebbe per fortuna non avere prodotto alcuna conseguenza negativa, ma mi riferisco in generale alla regola, che è quella di fare le indagini in modo assolutamente riservato, parlandone dopo che si sono concluse, perché potrebbero in qualche modo chi ha interesse a sapere in anticipo tipo, queste cose potrebbe regolarsi di conseguenza, questo sì. Potrebbe tradursi in un danno per l'Italia. Prende un vantaggio. Mi sembra elementare. E per esempio, forse non vuole commentare anche questo, ma siccome l'ha detto il Presidente del Consiglio, è una questione pubblica, estremamente pubblica. Il 4 luglio Renzi ha detto in Italia sono stati sventati, grazie all'intelligence, 2 o 3 attentati. Non si capisce neanche se 2 o 3. Questo, diciamo, a noi non risulta, perché tutto ciò che fa parte della prevenzione, che consente di sventare gli attentati, può anche, diciamo, rimanere, come dire, non entrare nel circuito comunicativo tra le istituzioni. L'importante è che, diciamo, nella comunicazione entrino gli elementi che servono a mettere tutte le istituzioni in grado di fare la loro parte. Ora, se ci sono da fare le indagini, non vi è dubbio che la magistratura deve essere informata tempestivamente. Se c'è da prevenire a livello di intelligence, di forze di polizia, deve prevenire, e poi, diciamo, comunque forse è opportuno che la magistratura venga informata. Sì, no, su questo sicuramente. Noi la ringraziamo, grazie per essere stato con noi, è sempre gentile e disponibile Franco Roberti, e procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e ci dice Oscar anche delle cose, insomma, in maniera, cioè, in maniera un chiara, misurato, però chiara, le dice in maniera chiara, in maniera chiara. Ci capisce anche per chi ascolta, mi permetto di tradurre ma senza attribuire parole che non ha detto al procuratore, che la politica, come vedete, a volte ha in maniera altalenante o il desiderio di, per così dire, rassicurarvi, e quindi dice abbiamo sventato, grazie, eccetera eccetera, o il desiderio di mettersi in prima fila per successi di efficienza, le classiche parole uscite di bocca al ministro Alfano su Grina sono esattamente questa roba qui, e dopodiché ovviamente gli apparati dello Stato devono avere un'altra logica, soprattutto invece. Esatto, prima informare la magistratura e soprattutto comunicare il meno possibile quando sono indagini di una certa riservatezza, no anche perché delle due l'una, se i 2 o 3 attentati erano davvero in preparazione eccetera, e lo dici così, delle due l'una, o nessuno ci crede e dici beh, ti stai vantando, ma puoi dire 2 o 3, cioè sugli attentati, oppure, no, o 2 o 3, cioè, esatto, perché sono cose che stai e poi in ogni caso, a quel punto, se qualcuno di coloro che appartenevano a cellule e a reti che sono state impedite nel tentare qualcosa non hanno capito che davvero era intervenuto lo Stato, e magari se ne sono astenuti avendo solo sensazioni, così stai dando informazioni preziose a chi magari non è ancora assicurato alla giustizia. Cioè, è una materia delicata, ecco, tutta la questione dei rapporti riservati e dei segnali che noi mandiamo a questo mondo è una maniera molto italiana di combattere e contenere i danni del terrorismo, molto discutibile per certi versi, comprensibile per altri. La politica rischia di fare grandi pasticci. Allora, 800 24 00 24, il numero di telefono oggi non l'abbiamo dato, ma eccoci qua, i nostri ascoltatori ci chiamano comunque, caro Oscar. C'è Roberto, ci chiama da Milano, buongiorno. Eccoci. Complimenti per la trasmissione. Io volevo parlare un po', fare un breve commento se possibile sulla Turchia, con Erdogan che trova il consenso sulla maggior parte del paese, però si parla quasi della metà del paese, forse meno. Il voto che ha preso a novembre era il 49%, adesso credo che se si facesse un sondaggio vero sarebbe di più. Per quanto poco conosco la Turchia, 10 anni che la giro per lavoro, sostanzialmente vedo che la parte che gli manca è la parte più acculturata, più occidentale, la parte che da Istanbul, perché è stata industrializzata, la parte che è un po' più pensante, insomma. E il commento che vorrei voluto chiedere a Ferrari è questo, visto che la conosce molto bene, dopo questo periodo dove lui fa un sacco di politica, di annunci, la pena di morte, la repressione, eccetera, magari fra un mese salta fuori dicendo io sono magnanimo, io sono buono. Ma è questo che ci ha detto, no Roberto? Anche perché anche lei non si sente molto bene. La linea, insomma. Sì, però è quello che ci ha detto Ferrari, appunto, tra un mese si vedrà se poi Erdogan manterrà forse anche un po' il pugno duro lo sta utilizzando, il pugno duro su alcune cose lo sta minacciando, magari si vuole fermare usare come arma di ricatto. Io temo 20 anni. Però, tra l'altro, l'aspetto che ci ha detto Antonio Ferrari delle sue condizioni di salute, che possono sembrare una cosa magari secondaria, invece dice, fatto, come evidente. Dice che l'autoritarismo evidentemente dell'uomo, nei leader politici autoritari, questo aspetto è aumentato, è aumentato dopo che ha avuto da Napoleone a Mussolini a Hitler, lo sappiamo. Perché poi dovrebbe mettere Napoleone, Mussolini, Hitler, Erdogan, come io lo so, quando si è contemporanei, io lo capisco che sembra sempre eccessivo. Ma è chiaro, però tu hai però fatto questo 50.000 filotto... persone in 24-48 ore epurate, guarda che... Non sono pochi, certamente. Federico ci chiama da Pordenone, buongiorno. Buongiorno. E complimenti per la trasmissione, Oscar for President. Sì, domani. Va bene. Della bocciofila. Comunque grazie Federico. C'è stato... Niente, volevo fare un appunto sulla politica estera italiana e più in generale della comunità europea verso la Turchia, anche perché la Turchia prima va bene, dopo non va bene, dopo va in parte bene, dopo non va più bene. Qua siamo alle solite perché non sappiamo mai dare un'indicazione precisa e non sembra che i nostri governanti non abbiano neanche un'idea precisa. Volevo solo sottolineare invece che c'è un movimento in Italia, che è la Lega Nord, che su questo punto qui ha avuto un'idea sempre ben precisa della Turchia in Europa e di cosa eventualmente dovrebbe fare la Turchia per entrare in Europa, perché se no siamo sempre alle solite, siamo sempre al ridicolo. Va questa bene. È la mia opinione. È la sua opinione. Grazie Federico per, senti, per questa bisogna opinione. Dare atto che la Lega ha preso questa posizione da molto tempo, per così dire. Per converso, ci sono, a me colpisce perché naturalmente noi per mestiere, sai, siamo rimasti tra i pochi che leggono tutti i giornali, no? Beh, ci sono dei giornali che sposano stamattina in maniera proprio fermissima il fatto: oh, non rompete troppo le scatole Erdogan. Sì, sta cacciando un po' di decine di migliaia di persone, ma noi dobbiamo essere realisti. È stato eletto, è stato votato. E non solo, ma poi ci conviene così, insomma, ma che cioè, il Messaggero fa un editoriale da questo punto di vista che mi ha lasciato veramente... abbastanza senza parole. Allora, io capisco questo grande realismo, però attenzione a non perdere di vista che tutto sommato la civiltà europea, la civiltà italiana, insomma la libertà, o questa roba ha un senso ancora nella storia, ma altrimenti noi cosa ci stiamo a fare? No, boh. No. Chiaro, le perplessità ci sono. Comunque ci dobbiamo fermare per il giornale radio, ma non abbiamo finito perché andiamo avanti fino alle 9.30 e dopo parleremo di doping e Russia. E anche quella è una grande partita politica, grande partita oltre politica che di merito. La politica è sospesa, dicevano ieri, dovevano, tra poco ci sono le Olimpiadi. Ho paura di dire a Putin fuori. No. Sì. Vai tu a dirglielo. Oscar, no, sono sei convinto. Stato scelto tu per esatto. Andare a comunicare a Putin che la Russia non incenerisce con lo sguardo. Ma non so, di karate, ti fa subito vedere le Olimpiadi di karate come si svolgono. Dai, dopo il giornale radio, state con noi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Brexit, anzi i potenziali effetti legati all'esito del referendum sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, continua a preoccupare le istituzioni finanziarie. Ieri è stato il Fondo Monetario Internazionale a rivedere al ribasso le proprie stime sull'economia globale. Il peggioramento delle previsioni, dice il Fondo Monetario, riflette l'aumento delle incertezze legate anche agli scenari di Brexit. Incertezze che ovviamente si fanno sentire sulla fiducia di imprese e famiglie, sugli investimenti e anche sull'atteggiamento complessivo dei mercati finanziari. In pratica, in base alle nuove previsioni, l'economia a livello mondiale crescerà nello scenario base del 3,1% quest'anno e del 3,4% l'anno prossimo. In entrambi i casi le cifre sono più basse rispetto a ciò che era atteso prima del voto britannico del 23 giugno. Ma attenzione, perché il Fondo Monetario si esercita anche su uno scenario più pessimistico nel caso in cui i negoziati fra la Gran Bretagna e l'Unione Europea dovessero procedere in modo negativo. In questo caso la crescita mondiale potrebbe scendere addirittura al 2,8% sia nel 2016 sia nel 2017, con una perdita quindi di oltre mezzo punto rispetto alla situazione pre-Brexit. Una nota anche sull'Italia: si conferma, come avevano già previsto altre istituzioni, un rallentamento della crescita sia per quest'anno sia per il prossimo. Il nostro PIL si fermerà a un più 0,9%, un dato non incoraggiante visto che l'eurozona nel suo complesso farà molto meglio di noi e sarà complessivamente meno esposta alle conseguenze di Brexit. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Allora, Oscar, siamo qui, sono le 9:05 minuti in punto in questo momento, eh? Eccoci qua, eccoci ma qua, lo anche. Sai che ci sono tasse non pagate in Italia, pare 800 miliardi. Questo è un altro esempio. Che il Fondo Monetario, l'OCSE, dice delle cose che racconta lo Stato per mostrare i muscoli agli italiani dicendo dovete sentirvi in colpa, ben 800 miliardi. Poi arriva il Fondo Monetario e l'OCSE, che redigono un rapporto annuale molto ben fatto sullo stato della nostra amministrazione fiscale, dicono allo Stato italiano, lo chiamano col dettino nell'angolo e dicono, senti, e piantala lì di raccontare questa palla degli 800 miliardi, che non c'è nessun paese al mondo che faccia una classificazione di quelli che si chiamano i crediti fiscali, cioè quelli che lo Stato ritiene di dover incassare dai contribuenti, fatta col criterio con cui lo fate voi. Voi continuate a mettere tutto lo scaduto inesigibile, no? Che in un bilancio di una società o di una banca bisogna levare dal bilancio, che può figurarti come, all'attivo come patrimoniale, famosi, no? Come i famosi quindi, non performing loans. Voi chiedete alle banche e alle aziende di tenere i bilanci in regola e usate dei criteri truffaldini per il vostro bilancio. Infatti pare che di questi 800 miliardi solo 50 miliardi hanno sufficienti speranze di essere in quegli 800 raccolti. Miliardi lo Stato mette anche, per esempio, quello che chiede di incassare ma fa parte ancora della richiesta in contenzioso di cui non ha titolo di incassare. Insomma, ieri lo Stato si è messo in testa un bel capo appello per via del Fondo Monetario dell'Ocse dell'asino, quello con le due orecchione dell'asino, ecco, è lo stato fiscale. Però a proposito di questo, appunto, è un modo, visto che l'abbiamo chiesto qualche giorno fa, di continuare a chiedervi, chiamateci all'800 24 0024 per dirci quali sono secondo voi le tasse più odiose, quelle, ecco, proprio le tasse, visto non che dite state tutte, ricevendo non dite a tutte. Luglio il primo bollettino elettrico in cui c'è il canone di un'azienda che crede di farci concorrenza ma solo perché c'ha i partiti dentro ed è ossequiosa a questa stessa ora su un'altra rete con i politici, eccetera eccetera. Ricordateci, se è il canone Rai o qualcos'altro, va bene, la tassa che meno vi piace, chiamateci. Intanto vogliamo parlare di Russia, doping, sport, perché ieri era atteso dal CIO, cioè il Comitato Olimpico, la comunicazione a dire, allora che facciamo, sospendiamo tutta la Russia? Perché questa sembrava la richiesta. Eh beh, insomma, c'è un rapporto, il cosiddetto rapporto McLaren, fatto da un consulente della WADA, a dire c'era un doping di Stato per anni. Per anni le autorità del governo hanno coperto centinaia di sottrazioni di campioni, finti cose. Cioè, una roba di Stato, appunto. Esatto. Che Putin, succederà? Scusate, però, andiamo al punto. Putin. Ecco. Putin. A questo punto, però, per il momento il CIO non ha deciso. Vogliamo chiedere qualche lume a qualcuno che queste cose le ha denunciate? È colui che adesso sta seguendo passo passo Alex Schwarzer nel suo allenamento, con tutta la vicenda che anche ricordate. Il professor Sandro Donati. Buongiorno, professor Donati. Buongiorno a tutti. La ringraziamo anche perché so che sta allenando Schwarzer proprio in questo istante. Si è fermato un attimo con noi o lo sta seguendo? Insomma, ma la Russia, glielo chiedo direttamente, andrebbe proprio tolta dallo sport olimpico, secondo lei? No, no, non voglio arrivare a questo. La Russia va sospesa perché quello che è avvenuto è durato tanti anni ed è gravissimo. Ed è l'unico modo per tutelare gli atleti, perché poi gli atleti alla fine diventano strumenti di questo sistema. Ma insieme alla Russia... Tutti i documenti dimostrano che ce ne sono molti altri di paesi che vanno presi in esame. Per esempio? Basterebbe vedere il database che la magistratura di Bolzano ha sequestrato a un medico che collaborava con la IAF, per capire che è una situazione balorda, riguarda i keniani, riguarda i giamaicani, riguarda i turchi, riguarda i marocchini, riguarda gli spagnoli, tantissimi paesi hanno problemi. Nella Russia tutto è stato eletto a sistema, ma a questo punto poi si pone una questione fondamentale. Però aspetti, chiariamo una cosa agli ascoltatori, perché non è chiaro. Lei dice, in tanti paesi come in Russia c'è un problema diffusissimo di doping con la piena cooperazione delle autorità di Stato ai vertici delle federazioni, perché questa è l'accusa alla Russia, oppure nei paesi che lei ha citato c'è un vasto evidente problema di doping ma non così istituzionalmente comprovato? Lei ha fotografato alla perfezione. In Russia è stato tutto organizzato a sistema. In altri paesi le autorità, diciamo, governative osservano passivamente, mentre le istituzioni sportive si danno da fare per costruire le medaglie e i risultati in ogni modo. Quindi ecco, questa è la differenza. la differenza è questa. Però sospensione, ma che succederà? Cioè, lei è uno di quelli donati che dice sì, il CIO può sospendere, la IAF, cioè la Federazione di Atletica, può sospendere, ma coloro che sospendono sono i primi ad avere problemi, dovrebbero essere giudicati o no? Esatto, ma basta fare riferimento all'indagine della per i reati economici in corso a Parigi, che indica una compromissione di molti dirigenti ad altissimo livello della Federazione Internazionale che prendevano soldi dai russi. Ed è chiaro che la complicità era totale, mentre il CIO adesso sta facendo una sorta di operazione chirurgica in cui la Federazione Internazionale di Atletica, solo perché adesso diretta da Sebastian Coe, viene lasciata da parte. Ma lì la corruzione c'era e c'è, e quella va presa in esame, altrimenti è troppo facile risolvere tutto con l'indagine e l'esclusione dei russi. Quindi lei dice è lo stesso movimento olimpico ai vertici che si sta facendo attraverso l'operazione russa, una specie di plastica facciale. Ma guardi, le dico una cosa, l'altro giorno c'è stata l'udienza, che dire, forsennata e risolta in poche ore di trasmissione di documenti per via telematica su Sbatzer, e il CIO si è costituito e ha detto: noi non abbiamo seguito la vicenda di Sbatzer, non la conosciamo, però noi comunque siamo a tutela della IAF, cioè della Federazione Internazionale di Atletica. Sì. Questo è il modo di fare di questa gente, è un sistema monolitico, difendono i loro interessi e cercano di vedere il male solo all'esterno. E quello della Russia si intravedeva e si conosceva da tantissimo tempo. È sufficiente che si vadano a vedere le mie interviste di 6 anni fa, 5 anni fa, quando ho parlato di questo Putin che era inquietante, quando ho parlato di probabile partecipazione dei servizi segreti in tutta quanta la faccenda. Non ci voleva tanto. Ma quanto è sportiva e quanto politica secondo lei la questione? Cioè, ha citato Putin, sappiamo che lo sport è anche politica, sì, le affermazioni alle Olimpiadi sono politica allo stato puro. Come si vedeva i giochi per Sochi, no? Insomma, quello che ci ha speso Putin. Quanto è sport e quanto politica? Guardi, secondo me è l'uno e l'altro, gliel'ho detto, perché se fosse soltanto sport avrebbero aperto delle inchieste anche nei confronti degli altri paesi, e invece questo non è accaduto, e quindi è chiaro che è l'uno e l'altro. I russi, come dire, hanno delle colpe manifeste, sono proprio innegabili, e questo è chiaro, però è altrettanto evidente che adesso sono lo strumento attraverso il quale il sistema sportivo internazionale mostra la sua irreprensibilità, la sua presunta voglia di pulizia, insomma, che purtroppo tutta la storia del CIO è una storia molto brutta di compromissione con il doping. Io l'ho raccontata, l'ho scritta più volte, quindi che dire. Questo è ancora due domande, Donati. Ricordiamo che Schwarzer, quando la prima volta in lacrime ammise la vicenda del doping, disse anche che insomma era stanco di vedersi i russi passare davanti, no? Quindi Schwarzer è andato al di là, perché Schwarzer ha anche dato una collaborazione proprio all'agenzia russa e ai magistrati, ma anche alle autorità sportive italiane, indicando tutto quello che sapeva, ed è stato minimizzato, anzi è stato quasi sbeffeggiato, perché ormai Sbatzer era il bersaglio. Sbatzer andava spazzato via perché è troppo forte, perché io sono riuscito a portarlo solo con le metodologie d'allenamento ad un livello altissimo, e questo sconfessa tutto, sconfessa allenatori clientelari, allenatori furbastri, e crea una situazione che diciamo scombussola tutti i piani, perché il dopato serve da strumento, ripeto, per dimostrare quanto le istituzioni sportive sono irreprensibili. In questo caso specifico hanno preso uno che aveva un precedente e quindi poteva essere spazzato via con grande facilità. Certo. Tutto il controllo antidoping fatto su di lui è inquietante, i punti oscuri sono un'enormità, anche gli stessi organismi italiani che hanno scritto al TAS, sia pure con molta diplomazia e molto tatto, hanno indicato che i diritti alla difesa sono stati messi sotto le scarpe, ecco. E perché continua ad allenarsi? Cioè, pensa davvero di andare alle Olimpiadi? Cioè, fa capire quanta percentuale c'è che Schwarzer possa andare alle Olimpiadi? Ma vede, adesso io sto seguendo, proprio in questo momento gli sto dando da bere, quindi allora è chiaro che l'atleta tenacemente cerca di conservare quelle possibilità che non compromettono tutto lo sforzo di un anno e mezzo, tutte le sue speranze, tutta la sua avesse, diciamo, consapevolezza di essere un atleta assolutamente pulito, e quindi è chiaro, con molta disperazione dentro, con forza d'animo, sia in lui che in me, perché ogni mattina è pesante decidere di fare un allenamento che comunque non viene a livello di quelli precedenti. Io ripeto, e avrei voglia di gridarlo, questo è un atleta fortissimo, viene ucciso, viene spazzato via, ma io lo dimostrerò poi, passerà il tempo, lo dimostrerò, mi devono sparare in bocca per impedirmelo. A dimostrare, cioè, che è stato qualcosa che lo ha fermato. Però appunto le speranze, cioè dal punto di vista proprio legale, le speranze sono tutto legate nell'atteggiamento di questi giudici, perché se i giudici ascoltano tutta la sequela di persecuzioni che questa federazione internazionale ha fatto nei confronti di Svatter, faccio un esempio, mentre si attendeva la comunicazione di questa positività che loro avevano in mano e noi non sapevamo niente, se la sono tenuta in mano per un mese e 8 giorni, al tempo stesso la federazione internazionale ha cercato di dimostrare che prima della fine della sua squalifica, il 13 di marzo, lui avesse fatto una specie di gara davanti ai viali della RAI a Grotta Rossa a Roma, mentre era un allenamento da solo in mezzo al traffico. Ecco, e la federazione di atletica ha dovuto rispondere per filo e per segno, per giorni e giorni, a questo tentativo di dimostrare che invece quella fosse una gara. Poi hanno dovuto desistere, ma questo indica in maniera lampante, in maniera chiara, che doveva essere fatto fuori. Poi è chiaro che ci sono tantissimi altri aspetti inquietanti che io ho detto ai magistrati, ho riferito alla commissione antimafia. E questi ovviamente sono secretati, immagino. Vabbè, insomma, vedremo. Intanto la ringraziamo. L'impressione è che continui a seguire il istituzionalmente. Anche raccogliendo gli umori prevalenti delle federazioni e delle squadre, l'atteggiamento italiano sia che sfalso non ci va. Sì, la sensazione è questa. Comunque ringraziamo Sandro Donati, che proprio stava allenando in questo momento Alex Schwarz, ci ha anche detto gli passo da bere. Ci chiamano gli ascoltatori. Franco ci chiama da Roma, buongiorno Franco. Sì, buongiorno a tutti. Senta, purtroppo dottor Donati se n'è andato, vorrevo avere direttamente da voi un'opinione. Io sono stato per 30 anni il giudice perché di gara. Stava seguendo proprio Schwarzer in bicicletta, capito? Quindi insomma non purtroppo era facile. Dica, conosco Franco. Anche molto i parrucconi che ci sono tra i giudici che vanno a effettuare questi prelievi antidoping e la loro ignoranza, per cui essendo stato un primatista italiano juniores dei 1005 a suo tempo e decubertiniano al massimo, io ho adottato questi principi durante la mia attività di giudice, però questa maniera assurda di rincorrere il doping, le immagini che noi riceviamo, ho ricevuto a suo tempo quando lo facevo, dei paginoni con delle sostanze chimiche da 5 a 600 che interessano il doping, dall'efedrina che sta nello sciopo per bambini per la tosse di una volta fino al testosterone, e qui mi volevo fermare. Allora, sì. Testosterone prelevato, mi sembra, dopo Natale, da vostre notizie giornalistiche, no? Io non. Sì, non preleva Schwarz è stato fatto il 1 gennaio, proprio ecco. Il primo giorno dell'anno. Allora, non mi pare che abbia effettuato gare di grande importanza una persona poi che da 2 anni era in squalificato, no? A un certo punto ci sono le feste, personalmente lo so queste cose, bisognerebbe interrogare un andrologo, però il testosterone ha un calo anche di quantità, di percentuale che va da 0 a 5, per cui bisogna assumerlo. Però Franco non ci può fare il test di Schwarz in diretta. No, ma fino a 6, ho già finito. Allora, fino a 6, no, a questo punto avere dei contatti fra uomo e donna cala, per esempio, questa quantità. Il testosterone non dà velocità, forza, dà aggressività. Franco, ripeto, mi perdoni, io non è che la voglio interrompere, non possiamo fare, cioè è stato fatto un test peraltro a Colonia, poi mandato in Canada da laboratori che da quel punto di vista non sono neanche contestati né dall'allenatore né dall'avvocato, cioè la serietà del laboratorio che ha analizzato quella provetta. Ci sono tante altre cose strane, tipo perché è stata prima trovato negativo, poi dopo qualche mese è stato ricontrollato, magari si può ipotizzare, qualcuno potrà ipotizzare una manomissione, ma non come dire la non serietà, però poi tutta la, insomma, il discettare sul livello di testosterone non lo sappiamo, nessuno di noi è un esperto e ha controllato la provetta di Schwarzer, no? Hanno fatto i laboratori. Con me non ce n'è più traccia, se uno fa l'esame. Non ce n'è più traccia, probabilmente. Abbandonato ogni attività, ogni tipo di... In ogni caso, insomma, le tasse più odiose, sai che ci sono? Ci dicono tutte le tasse di possesso, caro Oscar, il canone, il bollo auto, bravi, l'IMU. Bravi, bravi, bravi, bravi. Eredi di un passato in cui possedere auto, casa, TV era sinonimo di ricchezza e quindi causa di invidia, ci scrive Gabriele. Queste sono le tasse più odiate. No? Beh, questa è una possesso, logica. Attenzione questo... che naturalmente però tra scegliere tasse elevatissime sul reddito come noi abbiamo e tasse che hanno... sono cresciute in questi ultimi anni sul patrimonio, in un paese molto patrimonializzato e che ha bisogno di più redditi, bisognerebbe fare l'opposto. Cioè io preferisco bassissime tasse sul reddito e un po' di più su chi ha troppo patrimonio, perché bisogna bilanciare gli effetti, capite? Quindi il problema è che noi invece abbiamo alzato sia le tasse sul reddito, sia quelle indirette, cioè le accise, sia quelle patrimoniali, e infatti pecco perché abbiamo preso la nasata. La nasata anche dal Fondo Monetario dell'Ocse, no? Che ci... Cappello di Somaro per Padoan, per Padoan, per Padoan. Come scusa, come fa il Somaro? No, fa così, Padoan mette questo cappello a cono, come sai, con le due orecchie, c'era nelle vecchie edizioni, sì, che io avevo. Pinocchio, cioè... bravissimo. E a quel punto Padoan così è il Fondo Monetario che gli dice: ma non puoi dire 800 miliardi di crediti fiscali non pagati dagli italiani, ma pulisci quei conti, sono al massimo 50, su Piercarlino, altrimenti ti diamo la nota e non ti facciamo più portare neanche la merenda da casa. Alessandro ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti, ma in ordine così gerarchico velocemente, per me la tassa più, cioè sono due, la tassa più odiosa è quella indubbiamente sul risparmio, cioè quello che va a colpire il deposito titoli, anche se le azioni valgono zero, e quello lì col cappello dell'asino ha detto no, voi dovete calcolare lo stesso sul valore nominale. Esatto. C'è una cosa, questa è la prima, e poi? La seconda è il canone Rai, allucinante. Ti viene benissimo il Somaro, viene benissimo. Grazie Alessandro. No, non era per sminuire, era come dire la colonna sonora va bene. Pensa che questo paese record per imposte che si pagano anche in assenza di reddito, l'IRAP, questa meravigliosa invenzione italiana. Questo non è male, questo ascoltatore. Io non odio le tasse, odio il loro peso sul mio reddito. Ma è giusto, cioè, perché è questo che non ci fa crescere, ma è un'aurea saggezza che sfugge ai tanti componenti del gregge di Stato. Poi chi ci scrive l'ICI sulle attività produttive è assolutamente assurdo, mentre Paolo da Milano che ci dice? Paolo da Milano dice due cose. Una, che mi hanno triplicato l'IMU, che io una volta pagavo 900 euro. Ma lei ha triplicato la casa nel frattempo? No, è sempre rimasto uguale il posto. Solo che adesso pago 2200 euro all'anno. IMU, mentre prima no, ma io sto parlando di una struttura lavorativa, non di casa, l'attività produttiva. No, sì, è un'attività produttiva, però cioè io pago già le mie tasse, in più devo pagarmi l'IMU che viene tra l'altro tutta portata via dallo Stato, praticamente. Vabbè, quindi come l'ascoltatore che ci ha detto dice sulle attività produttive è la più assurda, ma da 900 euro a 2100 per me è una botta pazzesca. La seconda cosa è le tasse, le accise folli della guerra 15-18 che abbiamo ancora sulla benzina, perché io ricordo anche 5 centesimi, lì l'aveva fatto Berlusconi, 5 centesimi per i musei, per pagare 5 centesimi per i centri di accoglienza degli extracomunitari, eccetera eccetera, praticamente quello che io ho una spesa di circa 2000 euro l'anno di benzina, se guardo bene c'è 1800 euro di tasse su quella cifra che pago di ben. Quella è un'altra cifra folle, che quella del canone Rai alla fine sono 100 euro, sì, mi può dar girare le scatole, ma non è quello il danno, 70, il danno che farà migliaia di euro quest'anno sono 70, appunto, cioè voglio dire, quelle robe lì sono sciocchezze. No, 100 100, sì, no, 70 forse arriva a rate, no? Sì, 70. Arriva a rate, ma sono 100. Sono 100. Ma sono 100. Vedrai quante impugnative, quanti arriva che non doveva arrivare, vedrai che un giorno cambierà. Non so dirti come e quando. Oggi fa il, com'è che si chiama quello che fa i rumori? Il rumorista e il canterino. Il Bracardi, dai, magari. Per me fare il Bracardi sarebbe un grande ambizione. Allora, la tassa sui rifiuti ad Albano, visto che già sopportiamo la discarica, non è male, perché giustamente dice ad Albano c'è già la discarica, almeno ci dovrebbe togliere la tassa sui rifiuti. Invece, no, infatti non capivo perché ad Albano. Il nostro ascoltatore pone un problema serio: quando c'è già un'esternalità negativa legata al motivo della tassa, perché pure io non tassa. Devo essere agevolato? E no, la risposta dovrebbe essere, come dice lui, assolutamente sì, infatti, in termini di efficienza economica. Infatti, no, ma dice pagano due volte, prima la comunità perché sopportano, certo, la discarica, e poi pagano anche la tassa sui rifiuti. Va bene. E come sai, ha un marito che chiede il divorzio, c'è un altro assegno di mantenimento, e però la moglie gli resta in casa. Delle due l'una. Che il paragone, come al solito, ti farà passare il solito quarto d'ora un po' burrascoso un quarto d'ora burrascoso prevedo per Oscar Giannino appena rientra a casa. Ma no, era un esempio, così per capirci. Vabbè, era un esempio, esatto, per parlare di mogli di altri, insomma, mica. Va bene, Francesco ci chiama da Napoli. Francesco, invece, su chi vuole intervenire? Sì, buongiorno e complimenti, un po' meno per l'attesa comunque. No, volevo chiedere il vostro punto di vista in merito all'incontro che ci sarà tra Erdogan e Putin. Cioè, voi come valutate questo incontro? Secondo voi si potrebbe delineare una strana, particolare alleanza tra i due paesi o meno? Strana, particolare. C'è già stato, Francesco, un riavvicinamento abbastanza fortissimo, netto, inopinato. Erdogan, Antonio Ferrari ha detto quella è la strada che seguirà. E credo che Antonio Ferrari abbia gli elementi per farci ragionare su questo. Anch'io la penso come lui, ma lui è molto più autorevole e informato di noi in questo. Quindi sì, la risposta alla sua domanda è quella inedita, dopo tanti contrasti, alleanza recentissima, può essere un asse di sviluppo e anche di evoluzione della gestione della faccenda, sia nei confronti della Siria che nei confronti di Daesh. Ma un asse che tra l'altro c'è già stato nell'ultimo mese di riavvicinamento di Erdogan alla Russia, e infatti Putin ha manifestato solidarietà a Erdogan quando ha ripreso per il potere. Capirci, nelle ore delicate del finto golpe, o comunque golpe tollerato, proprio poi già sfruttato. Ormai sei andato a finto golpe. Beh, insomma, il titolo che avevano messo a Ferrari era quello, per capirci, mentre sul confine e sul Caucaso c'era un IL-20, che è il più avanzato aereo, la piattaforma aerea militare russa per la sorveglianza ECR a lungo raggio di quello che avviene sul territorio a centinaia di chilometri, non c'era nessun aerospia americano su questo, né imbarcato le portaerei. Guarda caso, la cosa è avvenuta quando da pochi giorni le due portaerei nel Mediterraneo americano erano una uscita da Suez e l'altra invece da Gibilterra, e non c'erano neanche i velivoli che da Incirlik americani, quelli di ricognizione elettronica, di tanto in tanto seguono l'evoluzione sul teatro siriano e iracheno. I russi c'erano ad ascoltare, gli americani no. Qualunque cosa voglia dire, forse i russi stavano dando una mano in quel caso a Erdogan. Intanto qua, vabbè, la gente ancora le tasse, parla le tasse sui rifiuti, la tassa più odiata alla burocrazia, insomma. Comunque ci chiama Vladimiro anche da Arezzo, buongiorno. Buongiorno carissimi. Dica. Io ho una tesi diversa rispetto al golpe in Turchia, rispetto a tutti gli altri. Cioè? Erdogan ha impedito la vera guerra civile tra l'Islam radicale e l'esercito, con il popolo nel mezzo, anticipandone le mosse, dando loro un braccio, impedendo loro di prendere tutto il corpo della Turchia. Questa è la mia tesi. Cosa ne pensate? Vabbè, Vladimiro, vedremo. Io a questa idea di il gran turco mediatore non ho visto poco in questi anni di Erdogan così. Cioè è un, cioè, quasi un turco, un Erdogan salvatore per Vladimiro, cioè colui che ha salvato Erdogan, una guerra civile. Oggi lo statista islamico ad avere un clero nazionale ai propri comandi non c'è in nessun altro paese dell'Islam. C'è in Turchia, perché l'ha costruito lui. L'ha voluto lui così, tant'è che epurano gli ultimi 429 imam che non sono all'obbedienza del governo, come abbiamo spiegato fin con l'intervento del padre che abbiamo avuto padre qui, Domenicano. E la religione in Turchia è organizzata sotto gli ordini e il comando di un direttorato che risponde al governo, quindi altro che la guerra tra l'islamismo e... questa è la mia opinione, però. Non vale più di quella del nostro ascoltatore, però vedremo. C'è Filippo d'Arezzo con cui concludiamo. Filippo, buongiorno. Buongiorno, velocissimo telegrafico, 15 secondi. Sì. Allora, sulle tasse antipatiche, l'ICI è stata rinominata imposta sugli immobili, divisa in TARI, TASI e paga. TASI e paga. No, attenzione, ma la TARI, che si chiama la componente del tassa sul rifiuto, sì, e va bene, la paghiamo anche volentieri. Peccato che contemporaneamente ci arriva l'addebito da parte del gestore locale, a me, a lei Giannino e a tutti gli altri, a Milan, per il corrispettivo specifico sulla base dei metri quadri da parte del gestore. Quindi sostanzialmente è una tassa che si aggiunge al corrispettivo del rifiuto. Beh, che le tasse si aggiungono, si sommano. No, però la prima è la tassa in corrispettivo del servizio, la seconda è un criterio patrimoniale adottando lo stesso imponibile che si sovrappongono. E questo è un furto, tecnicamente, perché... Filippo d'Arezzo era stato più sfumato, ma il concetto invece, a cui voleva arrivare io sono, come sto parlando di gente a cui il Fondo Monetario e l'Ocse ieri hanno detto evitate questa critica di dire agli italiani che si devono sentire in colpa perché gli dovrebbero 800 miliardi, state falsificando i vostri conti al MEF. Allora, con Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi, stavo dicendo Alessandra Fusconi, Elisabetta Fusconi in redazione. Siamo a rinnovarci a domani, caro Oscar. Eh sì, domani 21 di luglio vedremo quali santi e speriamo che non succeda niente oggi nel mondo. Sì, va, infatti, a me bisogna sperarlo di ora in ora. Incrociare le dita così. Va bene, dai, a domani.